con uno degli organizzatori del FRA, Festival Revolucionar Autodeterminat, a Pigneto e Strike SPA a Roma dal 20 al 22 settembre 2019. Ben trovato. Grazie, ciao, bentrovate a tutte e tutti. Ci racconti cos'è? Sì, allora, questo è un festival. Diciamo, qualche mese fa è nata un'assemblea che si chiama la FRA, Libera Assemblea Festival Rivoluzionario Autodeterminato, che è un'assemblea che ha deciso di costruire questo festival portando per le strade di Roma Est, per le strade, per le piazze, nel verde, negli spazi sociali, delle tematiche condivise da Francesca, che è la compagna che è venuta a mancare più o meno a dicembre, e per la quale stiamo costruendo questo festival, sia per lei, ricordando lei, ma con la voglia di portare in strada tutte queste lotte, insomma. Come si articoleranno queste 3 giornate? Allora, da 3 giorni si svolgerà, cominciamo con domani, che è venerdì, e saremo principalmente il pomeriggio a Dalia, che è lo spazio Donne Autodeterminate Libere in Azione, nella via del Pigneto. Dopodiché ci si sposterà in parata a Piazza Nuccitelli, dove ci sarà un apericena organizzato da noi e il cabaret antifascista che presenterà per l'occasione il Frappare. Sabato avremo una colazione di quartiere a Piazza dei Condottieri, con il ciclo frullato e altre attività e musica con la titubanda. E poi dalle 18, dal pomeriggio, ci saranno dei laboratori e dei cerchi a Strike, e la serata finale con Battaglia Grazie, Nano, lo Stress Autos e Roboderì. L'ultimo giorno è domenica, che è il giorno, diciamo, che non è certissimo, perché purtroppo il tempo è quello che è, porta pioggia, ma dovremmo vederci al lago, ma stiamo rivalutando. Per il lago abbiamo pensato una giornata dedicata anche ai bambini, con musica, attività per i più piccoli, è comunque una giornata passata all'aperto. Poi abbiamo avuto questa sfortuna, però se fa, insomma. Nella scelta dei contenuti di questa 3 giorni, su cosa avete voluto puntare l'attenzione? Concentrate proprio sul rendere unite queste lotte. Francesca seguiva tutte queste lotte che noi portiamo avanti singolarmente, ma di cui abbiamo voluto parlare a livello di assemblea, quindi anche inserire l'antispecismo accanto all'antisessismo, all'antirazzismo e all'antifascismo. È stata proprio questa, diciamo, è stato questo l'obiettivo: riuscire a renderle, fare una lotta che sia intersezionale, che possa attraversarle tutte e a portare un festival che contenga tutte queste tematiche. Questo è il lavoro, e per farlo ci siamo anche rivolti anche ad altri spazi sociali, ci siamo interfacciati con altre persone che vanno anche all'esterno della nostra assemblea, e mo sono un po' di mesi che la stiamo costruendo, e questo è il risultato, che però è, diciamo, il primo dei traguardi, perché questa assemblea è nata quest'anno ed è la prima volta che ci troviamo a fare una cosa così grossa, perché noi siamo tutte persone che ci siamo ritrovate per caso, che ci siamo ritrovate perché vicini a Francesca, ma con percorsi politici distinti. Quindi avrà un suo percorso dopo questi 3 giorni l'assemblea. Questo è l'obiettivo, cioè l'obiettivo è che in realtà dal 23 settembre ci si rivede e si ricomincia a lavorare, ma con un altro, diciamo, perché comunque non è stato parecchio impegnativo proprio per questa differenza che c'è alla base dei singoli e anche delle realtà da cui proveniamo. Sono tutte realtà differenti, tutte fanno parte della parte antagonista politica romana, però tutte differenti, anche modi di fare assemblea differenti. L'obiettivo è ricominciare dal 23 settembre a lavorare insieme, a confrontarci con altri spazi, a costruire un percorso che sia più solido di quello costruito fino ad ora. Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sulla programmazione? Allora, sì. Allora, i nostri riferimenti internet, noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama FRA Festival Rivoluzionar Autodeterminat, poi abbiamo la mail, che mo te la leggo, eccola qui, che è frafestival@tuta.io. Fra Festival Rivoluzionar Autodeterminat al Pigneto e Strike SPA a Roma dal 20 al 22 settembre 2019. Un saluto e un ringraziamento, a risentirci presto. A presto, a domani, cioè, dai, vediamoci, ci vediamo al fra.